Capitolo 17. Trascorse una settimana senza che avessi notizie del signor Rochester. Dopo 10 giorni non era ancora tornato. La signora Fairfax diceva che non si sarebbe stupita se, dopo aver lasciato Elias, egli avesse raggiunto direttamente Londra e di là il continente per non farsi più vedere a Thornfield fino all'anno venturo. Più di una volta ne era partito in modo altrettanto brusco e inaspettato. All'udir quelle parole sentii un gran freddo al cuore e fui per venir meno. Avevo subito una dolorosa delusione, ma facendo appello alle mie forze e rammentando i miei principi riuscii a mettere ordine nelle mie sensazioni. Stupii io stessa d'aver saputo superare così bene il mio temporaneo accecamento, d'aver messo in chiaro che nulla di ciò che faceva il signor Rochester doveva e poteva interessarmi. Non cercavo di umiliarmi persuadendomi di essere troppo inferiore a lui, al contrario, mi dicevo semplicemente «Tu non hai nulla a che fare con il padrone di Thornfield, fuorché ricevere il salario che ti dà per le tue lezioni alla sua protetta, ed essergli grata del trattamento gentile e rispettoso che, se fai il tuo dovere, hai diritto di aspettarti da parte sua. Convinciti che questo è il solo legame tra voi, che egli riconosca, e quindi non farne l'oggetto dei tuoi bei sentimenti, delle tue estasi, dei tuoi strazi, e così via». Egli non appartiene alla tua classe e tu devi restare nella tua. Abbi abbastanza amor proprio per non riporre l'affetto del tuo cuore laddove non è desiderato e potrebbe essere disprezzato. Continuai tranquillamente a compiere i miei doveri quotidiani, ma spesso mi si presentavano alla mente, sia pure in forma ancora incerta, valide ragioni per lasciare Thornfield e pensavo a mettere una nuova inserzione, fantasticando sulle possibilità di lavoro che mi si sarebbero offerte. Non ritenni necessario scacciare questi pensieri, germogliassero pure e portassero fiori se così doveva essere. Il signor Rochester era assente da circa 15 giorni quando la signora Fairfax ricevette una lettera. Ed il padrone disse guardando nel timbro, ora forse sapremo se dobbiamo aspettarlo o no. Mentre rompeva il sigillo e scorreva il testo, io continuai a sorbire il mio caffè. Eravamo a colazione. Faceva caldo e attribuì a questa circostanza il rossore che all'improvviso mi coperse la faccia, perché mi tremasse la mano e involontariamente rovesciassi nel piattino metà del contenuto della tazza. Non lo volli sapere. Beh, qualche volta mi lagno che qui c'è troppa tranquillità, ma ora credo che ci sarà da fare, almeno per qualche tempo, disse la signora Fairfax, ancora con la lettera davanti agli occhiali. Mi trattenni dal domandare una spiegazione alle sue parole, fino a quando non ebbi allacciato i nastri del grembiule di Adele, che si erano sciolti, e non le ebbi dato un altro pasticcino e un'altra tazza di tè. Soltanto allora chiesi con indifferenza. «Ma il signor Rochester non tornerà per ora?» «Sì, fra 3 giorni, dice, cioè giovedì, e non arriva solo. Non so se la comitiva che parte da Elias sarà numerosa, ma il padrone dà ordine di tenere pronte tutte le camere più belle e di riassettare la biblioteca e i salotti. Mi dice anche di far venire qualcuno dalla locanda di Millcote per dare una mano in cucina. Le signore condurranno con sé le cameriere e i signori i loro domestici. Avremo la casa piena». La signora Fairfax terminò in fretta la sua colazione e corse via per impartire i primi ordini. Come aveva predetto, in quei 3 giorni ci fu molto da fare. Tutte le stanze di Thornfield mi erano sempre parse perfettamente linde e ordinate, ma evidentemente mi sbagliavo, perché vennero assunte altre 3 nuove donne di servizio e la casa fu messa a soqquadro. I pavimenti furono lavati, i tappeti battuti e spolverati, gli stucchi, i quadri furono staccati e riappesi, gli specchi e i lampadari lucidati, le coperte, i piumini messi all'aria, i caminetti accesi in ogni stanza. Adele correva come impazzita in mezzo a quella baraonda e preparativi per l'arrivo di ospiti eleganti e la prospettiva della loro compagnia la mandavano in visibilio. Volle che Sophie passasse in rassegna tutte le sue toilette, come chiamava i suoi vestiti, rinfrescasse quelle un po' passé e desse aria alle nuove. Intanto non faceva che sgambettare dall'una all'altra camera degli ospiti, saltando su e giù dai letti e rotolandosi sui materassi e sui cuscini, ammucchiati per terra davanti ai caminetti accesi. Dai doveri scolastici era esonerata, perché la signora Fairfax, avendomi chiesto di aiutarla, stavo tutto il giorno in dispensa a dare una mano o a dare impiccio a lei e alla cuoca, e intanto imparavo a far torte, dolci, pasticcini alla francese, a preparare la selvaggina, a guarnire i piatti e le alzate della frutta. Gli ospiti erano attesi per giovedì all'ora di cena, cioè verso le 6. Non avevo tempo di correre dietro alle mie chimere e fui allegra e attiva come tutti, anche se non come Adele. A momenti però l'allegria svaniva e mi ritrovavo, a dispetto di me stessa, in preda a dubbi, timori e paurose congetture, specie quando vedevo la porta della scala del terzo piano, che in quegli ultimi tempi era rimasta sempre chiusa, aprirsi lentamente per lasciar passare Grace Poole in cuffia, grembiule bianco e fazzoletto al collo. La seguivo con gli occhi mentre si allontanava col suo passo smorzato dalle pantofole di stoffa. Si fermava a dare una capatina nelle stanze ancora sottosopra, giusto per dire alle donne come si fa a lucidare gli alari, a pulire il marmo dei caminetti o a togliere una macchia dalle tappezzerie di carta. Di solito scendeva in cucina una volta al giorno, consumava là la sua colazione, fumava un momento accanto al focolare e poi risaliva all'ultimo piano con un boccale di birra, chiudendosi nella sua stanza. Con la servitù ella non trascorreva più di un'ora in tutta la giornata e le altre 23 le passava in quella buia camera sotto il tetto. Intenta a cucire e forse a ridere del suo strano riso, sola come una prigioniera nella sua segreta. Ma la cosa più strana era che nessuno in tutta la casa, eccetto me, sembrava badare a Grace, né meravigliarsi delle sue abitudini. Nessuno domandava chi fosse realmente e che facesse lassù. Nessuno la compiangeva per la sua solitudine o il suo isolamento. Un giorno afferrai un brano di conversazione tra Lia e una delle donne avventizie. Parlavano di Grace. Lia aveva detto qualche cosa che m'era sfuggito e l'altro osservò: «Sarà certo ben pagata». «Oh sì», rispose Lia, «vorrei essere pagata come lei, benché non possa lagnarmi». «Ah, non c'è avarizia, Thornfield, ma il mio salario è un quinto di quello che guadagna la Poole. E ne mette da parte, perché ogni trimestre va a depositare denaro alla banca di Millcott. Non mi stupirebbe che avesse già risparmiato abbastanza da poter essere indipendente se volesse lasciare il posto. Ma credo che le spiacerebbe, e poi non ha ancora 40 anni, è robusta, è capace, è troppo presto per smettere di lavorare». «Mi pare una donna che si sa sbrigare». «Ah, sì, può dirlo. Nessuno è più abile di lei per quello che deve fare», confermò Lia in tono significativo. «Non tutti ne sarebbero capaci, nemmeno per una buona paga». «Certamente no», fu la risposta. «Mi domando se il padrone...» Ma la donna non poté continuare la sua frase, perché Lia, accortasi in quel momento della mia presenza, fece cenno alla compagna di tacere e questa aggiunse a bassa voce: «La signorina non lo sa?» Lia scrollò il capo e la conversazione naturalmente cessò. Tutto ciò che ne avevo ricavato si poteva riassumere così: a Thornfield c'era un mistero che mi veniva taciuto di proposito. La sera prima del giovedì tutti i preparativi erano terminati: stesi tapeti, guarniti cortinaggi a festoni, i letti dalle coltri candide, forniti di tutto il necessario i tavolini a specchio per la toilette, lucidati i mobili, disposti fiori nei vasi, così tutta la casa appariva accogliente e festosa come mai l'avevo vista prima. Nella sala d'ingresso il grande orologio della cassa scolpita, gli scalini e la balaustra della scala erano lucenti come specchi. In sala da pranzo le credenze erano coperte di scintillante argenteria e di ricche porcellane e fiori esotici riempivano i salotti del loro forte profumo. Giunse il pomeriggio, la signora Fairfax si mise un bel vestito di raso nero, i guanti e l'orologio d'oro, perché aspettava lei ricevere gli ospiti, accompagnare le signore nelle loro camere e fare, insomma, gli onori di casa. Anche Adele volle cambiarsi d'abito, benché fossi convinta che almeno per quel giorno difficilmente sarebbe stata presentata alle signore. Tuttavia, per accontentarla, permisi a Sophie di metterle uno dei suoi vestiti di mussola. Quanto a me, rimasi com'ero, persuasa che nessuno mi avrebbe invitata a uscire dall'aula di studio, diventata per me un santuario e un piacevole rifugio nelle ore tristi. Era una mite e serena giornata di primavera, una di quelle giornate che tra la fine di marzo e il principio d'aprile si levano sulla terra come araldi dell'estate. Ormai volgeva il termine, ma l'aria si manteneva tiepida ed io disegnavo davanti alla finestra aperta. «Si fa tardi», disse la signora Fairfax entrando con un fruscio di gonne. «Sono contenta di aver ordinato il pranzo per le 7 e non per le 6 come voleva signor Rochester. Ho mandato John al cancello per vedere se si scorge qualcuno sulla via. Di lì si vede un bel tratto di strada in direzione di Millcott. S'affacciò alla finestra. Eccolo che torna», esclamò, e poi sporgendosi: «Dunque, John, ci sono notizie?» «Vengono, signora», fu la risposta. «Saranno qui tra 10 minuti». Adele corse alla finestra e anch'io mi alzai, ma tenendomi un po' in disparte dietro le tende per poter vedere senza essere veduta. I 10 minuti di John mi parvero molto lunghi, ma finalmente si udì un rumore di ruote, 4 cavalieri comparvero al galoppo in fondo al viale, seguiti da 2 carrozze aperte. Veli e piume ondeggianti riempivano i 2 veicoli. 2 tra i cavalieri erano giovani e belli, il terzo era il signor Rochester, su Mesrour, il suo cavallo nero, con pilota che gli saltava davanti. Al suo fianco cavalcava una signora e su quella coppia sembravano fissi gli sguardi di tutti. La rossa veste d'amazzone della dama toccava quasi terra e tra le pieghe trasparenti del lungo velo che le svolazzava dietro scintillava una ricca capigliatura d'ebano. «La signorina Ingram!» esclamò la signora Fairfax e corse via. La cavalcata, seguendo la curva del viale, svoltò rapidamente l'angolo della casa e scomparve alla vista. Adele voleva scendere, ma io la presi sulle mie ginocchia e le spiegai che né ora né mai doveva permettersi di presentarsi alle signore a meno che non la facessero chiamare espressamente. Altrimenti il signor Rochester sarebbe andato in collera con lei. Versò qualche lacrima, ma quando glielo dissi, ma poi vedendo che mi rabuiavo, acconsentì ad ubbidire. In quel momento un allegro vocio salì dall'ingresso. Le voci gravi degli uomini si fondevano armoniosamente con quelle argentine delle signori e, distinguibile tra tutte, sebbene non forte, era la voce sonora del padrone di Thornfield che accoglieva gli ospiti in casa sua. Passi leggeri salirono la scala, la galleria risuonò per un momento di gaie risate, le porte furono aperte e chiuse, poi, per un po', tutto tornò nel silenzio. «El change de toilette!» disse Adele, che con le orecchie tese aveva seguito ogni movimento e sospirò. Chez maman riprese: «Quand il y avait du monde, je les suivais partout, au salon et à leur chambre. Souvent je regardais les femmes de chambre coiffées et habillées les dames, et c'était si amusant, comme cela on apprend.» «Non hai appetito, Adele?» «Mais oui, mademoiselle, voilà 5 ou 6 heures que nous n'avons pas mangé.» «Allora, mentre le signore sono nelle loro camere, scenderò a prendere qualche cosa.» E uscendo con precauzione dal mio asilo, raggiunsi una scala di servizio che conduceva direttamente in cucina. Là tutti erano in moto, la minestra e il pesce finivano di cuocere e la cuoca, china sopra i fornelli, tutta indaffarata, minacciava di prendere fuoco con le sue vivande. Nell'ingresso di servizio due cocchieri e 3 servitori stavano raggruppati attorno al fuoco. Le cameriere probabilmente erano di sopra con le loro padrone e tutta la servitù avventizia assunta a Millcote era in faccende. Facendomi largo in mezzo a quel trambusto, raggiunsi la dispensa. Presi un pollo freddo, un pane, qualche pasticcino, 2 piatti, qualche posata e con il mio bottino tornai rapidamente sui miei passi. Appena in cima alla scala, mentre stavo chiudendo la porta dietro a me, un brusio mi avvertì che le signore stavano per lasciare le loro camere. Non potevo raggiungere lo studio senza passare davanti alle loro porte, così, per non correre il rischio d'essere veduta con il mio carico di vettovaglie, rimasi in quel cantuccio che, non avendo finestre, era sempre buio. Ad una le camere si votarono delle loro belle ospiti, delle quali intravvidi nella penombra le movenze aggraziate, le seriche vesti, mentre sostavano un istante tutte insieme in fondo alla galleria, chiacchierando gaiamente. Poi dileguarono per lo scalone con passo così lieve da far pensare ad una chiara nuvola rotolante giù per un pendio. La loro apparizione mi aveva lasciato negli occhi una visione d'eleganza a me fino allora sconosciuta. Trovai Adele che sbirciava dalla porta socchiusa dello studio. «Che belle signore!» esclamò in inglese. «Come sarei contenta di andare da loro! Credi che il signor Rochester ci farà chiamare dopo scena?» «No, di certo. Il signor Rochester ha altro a cui pensare. Dimentica le signore per questa sera. Forse le vedrai domani. Intanto, ecco la tua cena!» Adele aveva molto appetito, così il pollo e i pasticcini per un poco la distrassero. Avevo fatto bene ad andare a prendere quelle provviste, perché altrimenti sia lei che io, ed anche Sophie, alla quale ne mandai una parte, avremmo corso il rischio di saltare il pasto. La servitù era troppo occupata al pian terreno per ricordarsi di noi. I dolci e le frutta non furono portati in tavola che verso le 9, e alle 10 i servi correvano ancora avanti e indietro con i liquori e le tazze del caffè. Quella sera permisi ad Adele di rimanere alzata molto più tardi del solito, perché diceva che non sarebbe riuscita ad addormentarsi finché al piano di sotto non avessero cessato di aprire e chiudere le porte di far chiasso. Inoltre, aggiungeva, poteva anche darsi che il signor Rochester ci mandasse a chiamare quando lei era già svestita. E allora, quel dommage! Le raccontai qualche favola, poi per distrarla la condussi nella galleria. Il lampadario del vestibolo era acceso e affacciandosi alla balaustra ella poteva vedere i servi passare avanti e indietro. Sul tardi si udirono a un tratto le note del pianoforte che era stato trasportato in salotto. Adele ed io ci sedemmo sugli scalini per ascoltare. Una voce si unì alle note profonde dello strumento, una voce di donna che cantava con molta dolcezza. Alla solo seguì un duetto e poi una canzone a più voci. Negli intervalli giungeva fino a noi il brusio di un'allegra conversazione. Ascoltai a lungo e a un tratto mi accorsi che analizzando quelle voci cercavo soltanto di distinguere tra tutte quella del signor Rochester. Quando ci riuscii mi sforzai di afferrare le parole in quei suoni che la distanza rendeva inarticolati. Guardai Adele che aveva abbandonato la testa sulla mia e vidi che non riusciva più a tenere gli occhi aperti. Così la presi in collo e la portai a letto. Era quasi il tocco quando gli ospiti si ritirarono nelle loro camere. Il mattino dopo era ancora bel tempo e la comitiva dedicò la giornata ad una escursione nei dintorni. Partirono di buon'ora, chi a cavallo, chi in carrozza, e io vidi sia la partenza che il ritorno. La signorina Ingram era la sola donna a cavallo e, come il giorno prima, il signor Rochester le galoppava a fianco. La coppia cavalcava un po' in disparte dal resto della comitiva. Feci notare quella circostanza alla signora Fairfax, che stava alla finestra accanto a me. «Lei sostiene che non vi è nessuna probabilità che si sposino», le dissi, «ma come vede, il signor Rochester la preferisce ad ogni altra». «Sì, la mira, senza dubbio». «E lei pure», aggiunsi, «non vede che si china verso di lui mentre gli parla. È un gesto molto confidenziale, vorrei vederla in viso. Non mi è ancora riuscito». «La vedrà questa sera», ho detto al signor Rochester, «che Adele arde dal desiderio di conoscere le signore», ed egli mi ha risposto, «la faccia scendere in salotto dopo pranzo e chieda alla signorina Eyre di accompagnarla». «L'ha detto per semplice cortesia, perché non è necessario che ci vada, ne sono certa», risposi. «Già, io gli ho fatto osservare che, non essendo avvezza a veder gente, forse non le avrebbe fatto piacere trovarsi in mezzo a quell'allegra compagnia, ma egli ha risposto col suo tono asciutto, «sciocchezze, se si rifiuta le dica che lo desidero e se resiste andrò io a prenderla». «Oh, non gli procurerò questa noia», osservai. «Andrò, se proprio lo devo, ma non mi fa piacere. Ci sarà anche lei, signora Fairfax?» «No». Ho chiesto di potermi ritirare e il padrone mi ha accontentata, ma le dirò io come deve fare per evitare l'imbarazzo di un'entrata cerimoniosa, che è sempre la cosa più sgradevole. Vada in salotto mentre è ancora deserto, prima che le signore si siano alzate da tavola, e si sieda in un angolo. Non occorre che resti molto, a meno che non le faccia piacere. Quando gli uomini avranno raggiunto le signore, basta che il signor Rochester la veda, poi se la svigni pure. Nessuno si accorgerà di lei. Crede che tutta questa gente rimarrà a lungo? 2 o 3 settimane, non di più. Dopo le vacanze di Pasqua, il signor Lynn, che è stato nominato membro del comune di Millcote, dovrà ritornare in città per assumere la sua carica. E forse il signor Rochester lo accompagnerà, perché mi stupisce che si sia trattenuto tanto a lungo a Thornfield. Fu con trepidazione che vidi avvicinarsi l'ora in cui avrei dovuto presentarmi in salotto con la mia allieva. Adele era stata come in estasi tutto il giorno, dopo aver saputo che quella sera l'avrei condotta in presenza delle signore, e non si calmò che quando Sophie cominciò a vestirla. L'importanza di quell'operazione mise un freno alla sua irrequietezza, tanto che quando fu pronta, coi lunghi ricci ben pettinati sulle spalle, il vestito di seta rosa, la fascia di raso intorno alla vita e i mezzi guanti di pizzo, appariva grave come un giudice. Fu superfluo ammonirla di non sciuparsi la veste o l'acconciatura, poiché, aspettando che anch'io fossi pronta, si mise a sedere tutta composta sulla sua seggiolina, avendo cura di rialzare la gonna per timore di spiegazzarla. I miei preparativi non furono lunghi. Indossai il mio abito migliore, quello di seta grigio perla che avevo acquistato per il matrimonio della signorina Temple e che da allora non avevo più messo. Mi lisciai i capelli, mi appuntai sul petto il mio unico ornamento, la spilla con la perla, e scendemmo. Per fortuna il salotto aveva 2 ingressi e così evitammo di passare dalla sala da pranzo dove gli ospiti erano riuniti a mensa. Il salotto era deserto, un bel fuoco ardeva nel camino di marmo e le candele brillavano in quel tiepido silenzio tra i fiori rari che adornavano i tavoli. L'arco che metteva nella sala da pranzo era chiuso dalla portiera rossa, ma per quanto sottile fosse quella divisione, bastava ad impedirmi di afferrare la conversazione dei commensali, i quali del resto discorrevano a bassa voce. Adele, sempre impressionata dalla solennità dell'evento imminente, sedeva immobile senza una parola sullo sgabello che le avevo indicato. Io mi ritirai nel vano d'una finestra e prendendo un libro dal tavolo vicino tentai di leggere. Adele mi raggiunse con il suo sgabello e dopo un momento mi toccò le ginocchia. «Che c'è, Adele? Est-ce que je ne peux pas prendre une seule de ces fleurs magnifiques, mademoiselle, seulement pour compléter ma toilette?» «Ci pensi troppo, Adele, al tuo vestito. Ma ti darò il fiore», e togliendo una rosa da un vaso gliela misi alla cintura. Ella trasse un sospiro di ineffabile soddisfazione, come se la coppa della sua felicità fosse ormai colma, ed io mi volsi per nascondere un sorriso. Vi era qualche cosa di comico e insieme di triste nella innata e profonda devozione di quella piccola parigina per tutto ciò che riguardava la toilette. In quel momento si udì un rumore di sedie smosse nella stanza accanto. La portiera rossa fu scostata e attraverso l'arco apparve la sala da pranzo con il lungo tavolo scintillante d'argenteria, di porcellane e di cristalli. Sotto la luce che pioveva dal grande lampadario, un gruppo di signore comparve sulla soglia, avanzò e la portiera ricadde dietro ad esse. Erano soltanto 8, ma mentre entravano mi parvero di più. Alcune erano alte, molte vestite di bianco, e tutte indossavano abiti ampi e fluttuanti, che al pari di un alone lunare rendevano più grandi e vaporose le loro figure. Mi alzai e le salutai con un inchino. Una o due risposero con un lieve cenno del capo, le altre si accontentarono di guardarmi. Si dispersero nella sala, e la leggerezza e la vivacità dei loro movimenti mi fece pensare a un gruppo di uccelli, dalle piume candide. Alcune si adagiarono languidamente sui divani, altre si chinarono sui tavoli per guardare i libri e i fiori, altre infine formarono un gruppo attorno al fuoco. Tutte parlavano con voce limpida ma in un tono sommesso che pareva loro abituale. Seppi più tardi come si chiamavano e tanto vale che ne citi addirittura i nomi. Prima di tutto vi era la signora Ashton con le sue due figlie. La madre doveva essere stata una bella donna e si conservava ancora bene. Amy, la maggiore delle figlie, era piuttosto piccola, ingenua, infantile di viso e di figura, ma con qualche cosa di piccante nei modi. Stava bene, vestita di mussola bianca con una cintura azzurra. La seconda, Louise, era più alta e più elegante e aveva un grazioso visino di quelli che in Francia chiamano minois chiffonné. Entrambe le sorelle sembravano due gigli. Lady Lynn era una donna di 40 anni, alta, robusta, dal portamento eretto e l'espressione altera. Indossava un ricco abito di raso cangiante e un diadema di gemme guarnito di una piuma azzurra faceva risaltare la sua opulenta capigliatura nera. La signora Dent era di un'eleganza meno vistosa, aveva la figura sottile, un viso pallido e dolce e bei capelli biondi. Il suo abito di raso nero, la sciarpa di trina e le sue perle mi piacevano di più dello splendore della nobildonna. Ma tre signore soprattutto si facevano notare, forse anche per l'alta statura. Erano la vecchia Lady Ingram e le figlie Blanche e Mary. Tutte e tre erano molto alte. La madre poteva essere vicina alla cinquantina, ma aveva ancora la vita sottile e i capelli neri, perlomeno al lume delle candele. I denti pure apparivano perfetti. Tenuto conto dell'età, credo che molti la giudicassero una splendida donna, ed infatti lo era, ma nel suo contegno e nel suo sguardo si leggeva un'insopportabile alterigia. Aveva i lineamenti romani e il doppio mento che affondava nel collo troppo carnoso. Quelle fattezze mi parvero non soltanto enfiate ed incupite, ma solcate dall'orgoglio che le faceva tenere retta la testa in modo quasi innaturale. Gli occhi duri e cattivi mi ricordarono quelli della signora Reed. Parlando, masticava le parole e la sua voce era profonda, con inflessioni pompose, dogmatiche, insomma insopportabile. Il vestito di velluto rosso ed il turbante fatto con uno scialle indiano in tessuto d'oro dovevano conferirle almeno nelle sue intenzioni una dignità veramente imperiale. Blanche e Mary erano entrambe alte e diritte come pioppi. Mary era troppo sottile per la sua statura, ma Blanche era modellata al pari di una Diana. La guardai naturalmente con particolare interesse. Prima di tutto volevo vedere se il suo aspetto corrispondeva alla descrizione fattami dalla signora Fairfax, poi se somigliava alla mia miniatura di fantasia e infine, devo pur confessarlo, se era veramente tale da poter piacere al signor Rochester, sui gusti del quale mi ero fatta un'idea tutta mia. Per quanto riguardava la figura, corrispondeva punto per punto sia alla mia miniatura che alla descrizione della signora Fairfax. Aveva il busto armonioso, le spalle graziosamente spioventi, il collo lungo e sottile, la capigliatura d'ebano, ma il viso, salvo che per la freschezza dell'età, era come quello della madre. Gli stessi tratti alteri, la stessa fronte caparbia, lo stesso orgoglio, ma non altrettanto cupo, poiché la rideva continuamente di un riso ironico e sarcastico, come l'espressione abituale della sua bocca sinuosa. Si dice che la genialità sia cosciente di se stessa. Non so se la signorina Ingram fosse geniale, ma certo aveva coscienza del proprio valore, e come... Cominciò a parlare di botanica con la dolce signora Dent, che non aveva studiato quella scienza, anche se, come disse, amava i fiori, specialmente quelli selvatici. La signorina Ingram, invece, ne era padrona e faceva sfoggio delle sue cognizioni. Mi accorsi subito che si divertiva alle spalle della signora Dent, approfittando della sua ignoranza. Lo faceva abilmente, ma ciò rivelava un'indole perlomeno poco generosa. Poi si sedette al pianoforte ed eseguì una difficile sonata. Cantò con voce armoniosa, parlò in francese con sua madre, correntemente e con un buon accento. Mary aveva una fisionomia più aperta e più mite, tratti più dolci anche, e la carnagione più chiara. Blanche era scura, come una spagnola. Ma non aveva vita, il suo viso mancava d'espressione, i suoi occhi di vivacità. Non parlava e una volta sedutasi al suo posto rimaneva là, ferma come una statua in una nicchia. Entrambe le sorelle erano vestite di bianco. Poteva la signorina Ingram essere colei che il signor Rochester avrebbe scelta per sua sposa? Non ero in grado di rispondere a me stessa perché ignoravo i suoi gusti in materia di bellezza femminile. Se gli piaceva la bellezza imponente e maestosa, ella poteva essere il suo tipo. Inoltre era una ragazza piena di brio e con tutte le qualità che si convenivano al suo rango. Molti uomini dovevano ammirarla e che anche lui fosse tra quelli mi pareva quasi certo. Per non avere più ombra di dubbi non mi restava che vederli insieme. Frattanto, lettrice, non devi supporre che Adele fosse rimasta fino allora immobile sul suo sgabello accanto a me. No, quando le signore erano entrate si era alzata, si era fatta loro incontro e con un inchino cerimonioso aveva detto seria seria «Bonjour, madame». La signorina Ingram, posando su di lei uno sguardo ironico, aveva esclamato «Oh, guarda che scimmietta!» «Credo sia la pupilla del signor Rochester», aveva osservato Lady Lynn, «la piccola francese della quale ci ha parlato». Ma la signora Dent le aveva stretto gentilmente la mano e l'aveva abbracciata, mentre Amy e Louisa Easton esclamavano «Che amore di bambina!». Poi l'avevano fatta sedere sul divano ed ora, seminascosta in mezzo a loro, Adele chiacchierava, un po' in francese, un po' in pessimo inglese, cattivandosi non solo le due ragazze, ma anche la signora Easton e Lady Lynn, e lasciandosi vezzeggiare con aria beata. Finalmente fu portato il caffè e gli uomini vennero invitati in salotto. Io sedevo un po' in ombra, se di ombra si poteva parlare in quella stanza riccamente illuminata, seminascosta dalla tenda della finestra. La portiera che chiudeva l'arco fu di nuovo scostata e gli uomini entrarono. Il loro ingresso, come quello delle signore, mi parve imponente. Erano tutti vestiti di nero, la maggior parte alti, alcuni giovani. Harry e Frederick Lynn sono due impeccabili damerini e il colonnello Dent, un bel militare. Il signor Ashton, il magistrato del distretto, ha maniere signorili e i baffi e le ciglia nere sotto i capelli argentei gli conferiscono un aspetto da padre nobile. Lord Ingram è alto e bello come le sorelle, ma apatico come la minore e sembra privo sia di vigoria fisica che di vivacità intellettuale. Ma dov'è il signor Rochester? Ah, eccolo che entra al fine. Io non guardo verso la porta, eppure lo vedo giungere. Cerco di concentrare la mia attenzione sulle maglie della borsa alla quale lavoro. Cerco di pensare soltanto alle perline d'argento e ai fili di seta che ho sul grembo, ma vedo nitidamente la sua figura. E inevitabilmente ricordo il nostro ultimo colloquio, quando, dopo il servizio a suo giudizio inestimabile che gli avevo reso, stringendomi la mano e chinandosi su di me, mi aveva guardata con occhi che rivelavano un cuore in tumulto ed ansioso di espandersi. Come gli ero vicina in quel momento e che cosa era accaduto dopo perché i nostri rapporti fossero cambiati. Ora eravamo distanti, estranei, tanto estranei che non speravo neppure che mi rivolgesse la parola e non fui sorpresa di vederlo dirigersi senza gettarmi neppure uno sguardo all'altro capo della sala dove si mise a conversare con una signora. Quando fui certa di poterlo osservare senza essere notata, fissai gli occhi su di lui. E se appena tentavo di distoglierli, inevitabilmente tornavo a guardare da quella parte. Lo osservavo, provando in quella contemplazione un piacere vivo, acuto, eppure straziante, oro puro trafitto da una punta di acciaio. Un piacere simile a quello dell'uomo morente di sete che si trascina sino ad una fonte che sa avvelenata, eppure si china e ne beve l'acqua come se fosse un nettare divino. Vi è molta verità nel detto secondo il quale la bellezza è negli occhi di chi guarda. Il viso pallido e olivastro del signor Rochester, la sua fronte massiccia, le folte nere sopracciglia, gli occhi profondi, la bocca ferma e severa, tutta energia, risolutezza e volontà, non rispondevano ai canoni della bellezza, non erano belli nel senso preciso del termine, ma per me il suo viso era più che bello ed esercitava su di me un'influenza, un'attrattiva che dominandomi mi toglieva ogni volontà e mi metteva tutta in suo potere. Non avevo voluto amarlo. La lettrice sa quanto io abbia lottato per estirpare dal mio cuore i germi dell'amore che vi si erano annidati. Ed ora m'era bastato rivederlo perché quel sentimento si ridestasse in me, più vivo e più forte di prima. Egli mi costringeva ad amarlo, senza neppure guardarmi. Lo paragonai ai suoi ospiti. Che cosa valeva la grazia galante dei giovani Lynn, la languida eleganza di Lord Ingram e persino la prestanza del colonnello Dent, in confronto alla forza nativa, alla potenza genuina che ispiravano da tutta la sua persona? Il loro aspetto, la loro espressione non destavano in me alcuna simpatia, pur sapendo che tutti li giudicavano belli e attraenti, mentre si criticavano nel signor Rochester i tratti duri, irregolari e l'espressione cupa. Li vedevo sorridere, ridere. Inutile. Le candele avevano tanto animo nelle loro fiammelle quanto essi nel loro riso. Il suono di un campanello tanto significato quanto il loro riso. Ma vidi sorridere il signor Rochester. I suoi tratti severi si addolcirono, i suoi occhi brillarono di una luce gentile, dolce e indagatrice al tempo stesso. Parlava in quel momento con Luisa ed Amy Ashton, e mi stupì che esse rimanessero calme sotto quello sguardo che a me sembrava tanto penetrante. Mi aspettavo che chinassero gli occhi, che arrossissero, e fui felice di vederle invece affatto indifferenti. Egli non è per loro quello che è per me, mi dissi. È di un'indole diversa, ma che forse ha molto in comune con la mia. Sì, ne sono certa. Mi sento simile a lui, capisco il linguaggio del suo viso e dei suoi gesti. Sebbene il rango e la ricchezza ci separino, vi è qualche cosa nel mio cervello e nel mio cuore, nel mio sangue e nei miei nervi, che mi rende spiritualmente affine a lui. Mi sono detta pochi giorni fa che non ho nulla in comune con lui, fuorché ricevere il salario che mi deve. Ho proibito a me stessa di pensare a lui diversamente che come a un padrone che mi paga, ma ho pronunziato una bestemmia contro natura. Tutti i miei sentimenti migliori, più forti, più sinceri, convergono istintivamente verso di lui. So che devo celarli, so che devo soffocare ogni speranza e ricordare che egli non può curarsi di me, poiché quando affermo che sono della sua specie non intendo dire che ho la sua forza né la sua attrattiva, ma soltanto che ho in comune con lui gusti e sentimenti. Devo quindi convincermi che siamo separati per sempre, pure so che lo amerò finché avrò vita. Fu servito il caffè. Le signore, dopo l'ingresso degli uomini, erano diventate gaie come allodole e la conversazione si fece più allegra ed animata. Il colonnello Dent e il signor Ashton discutevano di politica, le loro mogli li ascoltavano. Le due orgogliose nobildonne, Lady Lynn e Lady Ingram, chiacchieravano tra loro. Sir George, che ho dimenticato di descrivere, gentiluomo di campagna, grosso, grasso e fresco, stava in piedi accanto a loro con la tazza in mano, interloquendo ogni tanto. Frederick Lynn si era seduto di fianco a Mary Ingram e le faceva vedere le illustrazioni di un bellissimo libro. Ella guardava, sorrideva, ma era evidente che non sapeva che cosa dire. L'alto e flemmatico Lord Ingram stava chino sulla spalliera della sedia della piccola e vivace Amy Ashton. Voltata verso di lui, ella chiacchierava come uno scricciolo, preferendo di gran lunga quel suo compagno, il signor Rochester. Erlyn aveva preso posto ai piedi di Luisa, dividendo lo sgabello con Adele. Egli cercava di parlare francese con la bambina e Louise rideva dei suoi sbagli. A chi si sarebbe unita Blanche Ingram? Stava sola davanti a un tavolo, graziosamente china sopra un album. Sembrava aspettasse d'essere cercata, ma non attese a lungo, perché a un tratto andò ella stessa a scegliersi il compagno. Il signor Rochester, dopo aver lasciato le signorine Ashton, si era accostato al caminetto e se ne stava solo là, come lei, davanti al tavolo. Blanche lo raggiunse e gli si mise di fronte, restando in piedi anch'essa. Credevo, signor Rochester, disse, che i bambini non le piacessero. Infatti. E allora che cosa l'ha indotto a prendersi cura di una pupattola come quella? Continuò accennando ad Adele. Dove l'ha raccolta? Non l'ho raccolta. Mi è stata affidata. Avrebbe dovuto metterla in collegio. Oh, non potevo permettermelo, sono troppo cari. Ma mi pare che lei abbia assunto un'istitutrice. Ho visto una ragazza con la sua pupilla poco fa. Dove è andata? Ah, eccola là, dietro la tenda. Certamente è pagata e dovendo poi mantenere due persone anziché una, non vedo come possa convenirle. Temetti, o devo dire sperai, che quell'allusione alla mia persona inducesse il signor Rochester a voltarsi dalla mia parte e involontariamente mi ritrassi di più nell'ombra, ma egli non si voltò. Non ci avevo pensato, rispose con indifferenza guardando fisso davanti a sé. No, voi uomini non pensate mai all'economia, né alle cose assennate. Dovrebbe sentire che cosa dice delle governanti la mamma. Mary ed io a suo tempo ne abbiamo avute, credo, almeno una dozzina. La metà erano incapaci, le altre ridicole e tutte insopportabili. Non è vero, mamma? Che cosa hai detto, cara? La giovane, cui la madre si rivolgeva con tanta tenerezza, ripeté la domanda. Carissima, non parlarmi di istitutrici, basta il nome a rendermi nervosa. Mi hanno martirizzata con la loro incapacità e i loro capricci. Ringrazio Dio di non averne più bisogno. La signora Dente si chinò allora verso quell'amabile dama, bisbigliandole qualche cosa all'orecchio. Dalla risposta che ricevette ritengo l'avesse avvertita della presenza di una di quelle esecrate creature. Tanto meglio, esclamò la nobile signora. Chissà che non le giovi. Poi aggiunse a voce più bassa, ma non abbastanza perché non potessi udirla. L'ho notata, sono buon giudice delle fisionomie e nella sua vedo tutti i difetti caratteristici delle istitutrici. E quali sono, signora? Domandò a voce alta il signor Rochester. Glielo dirò a quattro occhi, rispose ella scrollando tre volte il suo turbante in modo estremamente significativo. Ah, la mia curiosità sarà svanita, allora vuole essere soddisfatta subito. Lo domandi a Blanche, che è le più vicina. Oh, non darmi questo incarico, mamma, non ho del resto che una sola parola da dire su quella categoria di persone, e cioè che sono una calamita. Non che le istitutrici mi abbiano fatto molto soffrire, sapevo bene come difendermi. Quanti dispetti abbiamo fatto Teodoro ed io alla signorina Wilson, alla signora Gray, a Madame Joubert. Mary era sempre troppo pigra per unirsi a noi, ma i tiri più belli li abbiamo giocati a Madame Joubert. La signorina Wilson era troppo malaticcia, lagrimosa e remissiva perché valesse la pena di irritarla. La signora Gray era coriacea e nessuno scherzo aveva presa su di lei. Ma la povera Madame Joubert, mi par di vederla ancora rossa di collera quando, dopo aver rovesciato il tè, sbriciolato per terra il pane imburrato, gettato per aria i libri, cominciavamo a far baccano con le righe, i leggi, le molle e la paletta. Teodoro, ti ricordi come ci divertivamo? Sì, certo, disse Lord Ingram con il suo accento strascicato, e la povera vecchia ci diceva, ah, che bambini perfidi! Allora le facevamo la predica sulla sua presunzione di voler istruire ragazzi svegli come noi, lei che era così ignorante. Sì, e ti ricordi, Tedo, che ti aiutavo a fare dispetti al tuo precettore, quello smorto signor Vining, il pastore con la pipita, come l'avevamo soprannominato? A un certo punto si prese la libertà di innamorarsi della signorina Wilson, che lo ricambiò, o almeno così supponemmo Teodoro ed io, sorprendendo tra loro uno scambio di tenere occhiate e di sospiri, che ci parvero indizi di una belle passion. Informammo subito tutti della nostra scoperta, che ci fornì il mezzo di liberare la casa di quei pesi morti. Non appena ebbe sentore della cosa, la mamma disse che era uno scandalo. Non è vero, mia signora madre? Certamente, mia cara, e non avevo torto. Ricordati di una cosa, vi sono mille ragioni perché in una casa ben governata non si tolleri nemmeno per un momento una relazione amorosa tra l'istitutrice e il precettore. Prima di tutto, ti prego, mammina, risparmiaci l'enumerazione di quelle ragioni. Del resto le conosciamo tutti. Pericolo di cattivo esempio per i bambini innocenti, distrazione e quindi negligenza nel proprio dovere da parte degli innamorati, alleanza e fiducia reciproca, confidenze, chiacchiere, insolenza verso i padroni, rivolta e insurrezione generale. Non è così, baronessa Ingram di Ingram Park? Sì, mio fiorellino, hai ragione, come sempre. Allora non c'è altro da dire e cambiamo argomento. E Mishton, che non aveva udito queste ultime parole o non volle farvi attenzione, interloquì con la sua dolce voce infantile. Anche Luisa ed io avevamo il vizio di tormentare la nostra governante, ma lei era così buona che sopportava tutto senza irritarsi. Non era mai in collera con noi, non è vero, Luisa? Sì, per quante ne combinassimo, era sempre dolce con noi, anche se le rovesciavamo il cestino da lavoro o le mettevamo sotto sopra tutti i cassetti, ci dava sempre tutto ciò che volevamo. Temo, disse la signorina Ingram con un sarcastico sorriso, che ora saremo costretti ad ascoltare un riassunto delle prodezze di tutte le istitutrici. Per evitare una simile afflizione, propongo di nuovo di cambiare discorso. Signor Rochester vuole appoggiare la mia petizione? Signora, io la provo, su questo punto come su qualsiasi altro. Allora aspetta a me prendere l'iniziativa. Signor Edward è in voce questa sera? Se lei lo comanda, donna Blanche, lo sarò. Quando è così, signore, la mia altezza le ordina di schiarirsi i polmoni e gli altri organi vocali perché saranno messi al mio regale servizio. Chi non vorrebbe essere il rizio di una sì splendida Mary? Oh, che mi importa di rizio, esclamò ella, scrollando i copiosi ricci bruni e accostandosi al pianoforte. A parer mio il menestrello David doveva essere un tipo molto insipido. Il fosco Bothwell ha le mie preferenze. Per me un uomo non val nulla se non ha in sé qualcosa di diabolico. La storia dica pure ciò che vuole sul conto di James Hepburn, ma io credo che fosse proprio uno di quegli uomini fieri e selvaggi, metà banditi e metà eroi, che volentieri avrei preso per marito. Signori, l'avete udita? Chi tra voi dunque rassomiglia di più a Bothwell? Domandò il signor Rochester. Direi che il preferito dovrebbe essere lei, disse il colonnello Dent. Sul mio onore le sono molto grato, fu la risposta. La signorina Ingram, che si era seduta con grazia altera davanti al pianoforte, allargando regalmente la nivea veste, iniziò un brillante preludio ma senza smettere di parlare. Quella sera sembrava in preda ad un'intima ebbrezza e sia con le parole che con l'atteggiamento pareva volesse eccitare non solo l'ammirazione ma anche la meraviglia. Evidentemente aveva deciso di far colpo sull'uditorio con il suo splendore e la sua audacia. «Oh!» proseguì continuando a far scorrere le dita sulla tastiera. «Sono stanca dei giovanotti d'oggi, povere, misere creature incapaci di fare un passo oltre il cancello del parco paterno e persino di accostarvisi senza il permesso o la compagnia della madre, creature vanesie che pensano soltanto alla loro bellezza e alle loro mani bianche, ai loro piccoli piedi, come se gli uomini dovessero essere belli, come se la leggiadria fisica non fosse una prerogativa particolare della donna, suo legittimo appannaggio ed eredità. Ammetto che una donna brutta sia una macchia sulla faccia della terra, ma quanto agli uomini non dovrebbero ambire altro che la forza ed il coraggio e far proprio questo motto: caccia, competizione, lotta e il resto non val nulla. Ecco quale sarebbe la mia divisa se fossi uomo. Quando mi sposerò, continuò dopo una pausa che nessuno interruppe, non vorrò trovare un rivale in mio marito, bensì un suddito. Non sopporterò competitori presso il trono che esigerò o in omaggio completo. La sua devozione non dovrà essere divisa tra me e l'immagine che vedrà nel suo specchio. Ed ora, signor Rochester, canti. Io l'accompagnerò. Oh, sono tutto obbedienza, fu la risposta. Cominciamo con una canzone corsara? Sappia che i corsari mi piacciono e per questo la prego di cantare con spirito. Un ordine pronunziato dalle labbra di Blanche Ingram animerebbe il marmo. Allora stia attento, perché se non mi piacerà il suo modo di cantare, la svergognerò facendole sentire come si cantano queste romanze. A questo modo lei offre un premio all'incapacità. Ora farò di tutto per cantare male. Se ne guardi bene, se lo farà apposta la punizione sarà proporzionata alla colpa. La signorina Ingram dovrebbe essere clemente, perché è in suo potere infliggere punizioni che un uomo non potrebbe sopportare. «Si spieghi?» ordinò la ragazza. «Mi scusi, non v'è bisogno di spiegazioni. Il suo istinto, che è fine, deve avvertirla che uno sguardo severo dei suoi occhi può essere una pena capitale. Canti!» disse ella e attaccò con foga l'accompagnamento. «Ora è il momento di svignarmela», pensai, ma le note che colpirono il mio orecchio mi costrinsero a restare. La signora Fairfax mi aveva detto che il signor Rochester aveva una bella voce. Infatti egli ora cantava con una voce di basso morbida e piena, nella quale metteva tutto il suo sentimento e la sua forza, una voce che dall'orecchio andava direttamente al cuore, suscitandovi strane sensazioni. Aspettai fino a quando si spense l'ultima vibrazione di quelle note piene e sonore, fino a quando la conversazione, interrotta per qualche istante, ebbe ripreso il suo corso, e poi lasciai il mio cantuccio e uscii dalla porta laterale, che per fortuna era vicina a me. Di là uno stretto corridoio conduceva nel vestibolo. Mentre l'attraversavo mi accorsi di avere una scarpa slegata e mi inginocchiai per riallacciarla sulla stuoia della scala. In quel momento udii aprirsi la porta della sala da pranzo e un passo d'uomo avvicinarsi. Rialzandomi in fretta mi trovai viso a viso con il signor Rochester. «Come sta?» mi chiese. «Benissimo, signore. Perché non si è avvicinato e non mi ha rivolto la parola in salotto?» Pensai che avrei potuto rivolgergli la stessa domanda, ma non volli prendermi quella libertà e perciò gli risposi. «Lei era occupato, signore, non volevo disturbarla. Che cosa ha fatto durante la mia assenza?» «Oh, nulla di speciale, ho continuato a dare lezioni ad Adele. E si è fatta ancora più pallida, me ne sono accorto subito. Che cos'ha?» «Nulla, signore. Ha forse preso freddo la notte, che mi ha semiaffogato?» «No, certo. Ritorni in salotto, ne è uscita troppo presto.» «Sono stanca, signore.» Mi guardò per un momento e anche un po' depressa aggiunse. «Che cos'ha? Me lo dica.» «Niente, signore, niente, non sono depressa. Ma io dico di sì, tanto depressa e tanto triste che poche parole ancora basterebbero a farle salire le lacrime agli occhi. Ecco, vede? Sono già umidi e una lacrima le trema sulle ciglia. Se avessi tempo e non temessi di veder comparire qualche serva curiosa, saprei da che cosa dipende questa tristezza. Beh, per questa sera la scuso, ma sappia che fino a quando i miei ospiti rimarranno qui, intendo vederla in salotto tutte le sere. È un mio desiderio, non lo trascuri. Ora vada e mandi Sofia a prendere Adele. Buonanotte, mia si interruppe mordendosi le labbra e mi lasciò bruscamente.